Ambiance. Ambiance. Tokyo Lingi ambiance. Tokyo Lingi ambiance. Una la saboka mama. Ambiance motema. Ambiance ya bulingo. Ambiance la moule palmo. Sala na nu ambiance. Boga wanga sheri mama, mese wanga ikale palmo. Naruli yo mwana palmo, yata na bion. Oh, elingi yo, elingi ingai, tunana netwa yo mama. Boli kuja nona boga, nale tato. Sonia.